Benvenuti. Niente, presentiamo Gli anni incerti, canzone di fine millennio, edito da FQ. Prova, sì. Ci siamo? Sì. Sì, prova. Perfetto, grazie. Vai. Grazie. Ok. Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera. Siamo qui appunto con Emiliano e il suo romanzo Gli anni incerti, canzone di fine millennio. Io c'ho già subito una curiosità su questo romanzo, a partire da questo titolo. Intanto brevemente, fisca un po'. Cioè... Sì, vai. La storia di un'amicizia alla fine, no? Sì. Dalla nascita di questi tre amici, due maschi e una femmina, quindi abbiamo Guido, Jerry e Giulia Paola, che nascono sì. lo stesso giorno in tre città completamente diverse, insomma, ma si ritrovano poi tutti a Livorno e li seguiamo nella loro crescita fino, diciamo, una trentina d'anni, sì. dal 69 al 2001. Un periodo molto preciso, sì. no? Delle loro storie, ma anche della storia d'Italia, c'è questo sottofondo per cui arrivano continuamente le notizie di quello che sta succedendo nel nostro paese. E in questa storia, appunto, è la storia di tre amici, no? E questo tre ritorna tante volte nel libro e anche come titolo di una mostra d'arte che Guido poi porta avanti. E quindi la mia prima curiosità è: come mai la scelta di questo titolo? Poi arriviamo alla copertina e anche magari alla lettura che pensavamo di fare. Non è stato intitolato tre, o comunque se c'è stata già una scelta, se siamo partiti da questa storia, com'è che siamo arrivati agli anni incerti? Allora, buonasera a tutti. Dunque, tre mi sembrava un titolo un po' vago, nel senso che quando te vai a cercare un libro, vai su internet e digiti tre, ti viene fuori il mondo. Quindi ovviamente secondo me era buono cercare un titolo che non esistesse. Cioè, questa è una delle cose che faccio di solito quando scelgo un titolo. Siccome la vicenda è sì, la vicenda di tre bambini e poi ragazzini e poi ragazzi e poi adulti, in realtà queste vicende sono mischiate, come dicevi te, agli eventi storici inizialmente mondiali, quindi il 69, lo sbarco sulla Luna, uno nasce a New York, quindi Woodstock, eccetera, le lotte operaie, è intrecciato con le storie ovviamente del mondo e dell'Italia. Volevo dare un titolo che desse l'idea di questa cosa, di questi anni qui, che sono gli anni in cui sono cresciuto io, perché anch'io sono nato nel 69, quindi sono gli anni che sono andati dagli 0 ai 32 anni praticamente. E pensando a dei titoli, avevo pensato appunto Il numero imperfetto, proprio per fare riferimento al 3, eccetera. Poi però mi è venuto questo titolo, Gli anni incerti, perché in effetti sono anni che il 69 è già un anno particolare, perché siamo alla fine degli anni 60 e però c'è subito dopo gli anni 70, e quindi anche in Italia col terrorismo, insomma, sono stati anni un po' veramente incerti, un po' duri. Per me che ero piccolo, io avevo 7, 8, 9 anni negli anni 70, mi ricordo molto bene di questa atmosfera, e quindi insomma sono stati anni non facili secondo me, e quindi volendo scegliere un titolo, poi alla fine ho deciso di privilegiare più l'aspetto storico, cioè con la S maiuscola, cioè la storia quella appunto del paese e del mondo, che non la storia singola dei ragazzi. C'è un sottotitolo che è Canzone di fine millennio, che è stato aggiunto dopo proprio per far capire che è come se fosse appunto una canzone. Infatti ogni parte è diviso in sei parti più o meno, ha all'inizio una citazione di una canzone dell'epoca praticamente, quindi si parte dal 69 con Ma che freddo fa, in base a come entra all'interno del romanzo. E quindi niente, alla fine ho scelto di intitolarlo Gli anni incerti perché mi piaceva molto. C'è stato un po' di diatriba con l'editore, perché lui non era convinto, perché il romanzo è come tono, insomma, è abbastanza, non dico commedia, però è abbastanza brillante, leggero, no? E Gli anni incerti invece forse dà un tono più drammatico alla cosa, però alla fine insomma sono anni che sono anche drammatici, no? E quindi alla fine abbiamo scelto di lasciare quello. Senti, questa storia di amicizia, no? Come alla fine come si sviluppa, come nasce? Intanto come ti è venuta l'idea e da che spunto, se c'è un'immagine, un'idea, com'è che nasce questo romanzo? Sì. Allora, nasce dall'idea di... Allora, innanzitutto i tre protagonisti nascono il 22 giugno del 69, che è l'anno in cui sono nato io, il giorno in cui sono nato io. E mi è venuta in mente questa idea di far nascere questi tre personaggi lontani, perché c'è Guido, che è, nasce a Livorno, poi c'è Giulia, che nasce ad Assisi, anche se la famiglia abita a Livorno, perché il padre è originario di Assisi e viene da una famiglia molto religiosa, e invece Jerry, che nasce a New York perché la madre era scappata da questa famiglia altolocata e per fare la fricchettona a New York negli anni 60, quindi andava a giro a vedere i concerti dei Grateful Dead, eccetera, prendeva gli acidi. E quindi sono queste tre nascite in tre posti diversi, nascono in tre posti diversi e in realtà da tre famiglie di estrazione sociale diversa. E mi piaceva far interagire questi tre personaggi, appunto Guido, che ha una famiglia molto popolare, comunista, classica, di Livorno, Giulia, che invece ha una famiglia piccolo borghese molto di formazione cattolica molto forte, e Jerry invece, che viene da un nonno imprenditore, una famiglia di imprenditori molto ricchi che abitano a Livorno. Mi piaceva questa cosa di mischiare i tre tipi di estrazione sociale, e quindi tutta la prima parte è divisa sempre, diciamo, in capitoli in cui si segue uno o l'altro bambino insieme alle mamme. In realtà i protagonisti della prima parte sono le madri, non i bambini, non i neonati. E poi per farli incontrare a metà della seconda parte alla scuola elementare. E poi da lì parte la vicenda, diciamo, unitaria dei tre che vanno a scuola insieme, quindi elementari, medie, superiori, università. E questo è lo spunto che ha dato origine al libro, praticamente. Leggiamo un pezzo? Sì. Leggiamo, allora, vabbè, diciamo, leggiamo il pezzo sul capitalismo. Vai. Allora, quello che vedete in copertina è un coniglio bianco e nel romanzo si chiama Capitalismo. Ora leggerà Alessandra un brano per far capire l'origine di questo nome. Ovviamente è nella famiglia comunista. E leggiamo una parte che riguarda appunto Guido, che è il bambino quello più popolare, diciamo, di origini popolare. E prego, Alessandra. Oltre a Saetta, in casa Vox, ci sono anche una gattina, Stella, cinque galline che razzolano nel piccolo pollaio accanto all'orto e una giovane civetta che sta tutto il giorno attaccata a una catenella su un trespolo accanto all'albero di amarasche. L'ha trovata Vittorio mentre andava a caccia. Era ferita, lui l'ha presa, l'ha portata a casa e Antonella l'ha curata. Appena si sarà ripresa del tutto, la lasceranno libera. Tutti gli animali di casa Vox sono femmine, anche Saetta. L'unico rappresentante di sesso maschile è un coniglio che Siriana ha regalato a Mario per il suo quinto compleanno e che gira indisturbato tra l'orto e la casa, rosicchiando tutto quello che vuole. È bianco con gli occhi rossi. È cattivo, dice sempre Antonella, ha gli occhi del diavolo, mangia tutto quello che trova e poi è anche brutto. Quando è stato il momento di scegliere il nome, a Vittorio è venuta un'idea. È brutto. È cattivo, mangia tutto. Allora lo chiamiamo capitalismo. Così, quando il coniglio fa le sue cacatine nel soggiorno, Antonella lo apostrofa con «brutto capitalismo!» o quando mangia l'insalata dell'orto gli urla «capitalismo, ingordo!» Quando lo sorprende nel letto dei bambini, lo scaccia con uno scappellotto e un «capitalismo, sbarisci!» Ogni volta che sente la moglie gridare contro il coniglio, Vittorio sorride, pensando di aver avuto una buona idea. «Mamma, possiamo portare capitalismo al mare? Non pensarci nemmeno, Mario. Capitalismo sta qui insieme alle galline. Per favore, mamma, mamma, per favore, ti prego, ci sto attento io, te lo giuro. Vittorio, glielo dici tu? Quante storie, Anto, e faglielo portare. Grazie, babbo. Certo, gliele da sempre vinte, così io passo per quella cattiva». Antonella finisce di preparare i bambini. Infila loro un paio di canottiere a strisce sottili, bianca e rossa per Mario, bianca e blu per Nedo. «Forza, andate in macchina che io arrivo subito». Mario in un attimo solleva capitalismo afferrandolo per la collottola e si avvia alla macchina insieme a Nedo. Antonella sistema Giudo nella culla di legno e stoffa, con tanto di maniglia ricurva per il trasporto, costruita da Vittorio. Afferra il mangiadischi, il contenitore dei 45 giri e raggiunge i bambini nella 500 rossa. La scatola con i retini e tutto l'occorrente per pescare viene sistemata sul portabagagli. I bambini sono già seduti dietro, smaniosi di arrivare al mare. Antonella si siede davanti, con la culla sulle gambe. Vittorio posa le borse accanto ai bambini e si mette al volante. Mario, non fargli infilare la testa nella borsa a capitalismo, se no mangia tutto. Sì, mamma. Vittorio sgassa, infila la marcia e la famiglia Vox parte in direzione del mare. La 500, dopo il passaggio a livello, costeggia l'asilo dei bambini. Mamma, guarda l'asilo! L'ho visto, Nado. Domani ci andiamo? No, domani è chiuso. E perché? Perché è estate, l'estate è chiuso. E dopodomani? No, nemmeno. E quando ci andiamo? Quando finisce l'estate. E quando finisce l'estate? Quando comincia l'autunno. Domani? Sì, domani, taglia corto Vittorio. Antonella prende il mangiadischi. Sentite un po' cosa mi ha pestato Siriana e infila un disco nella bocca dell'apparecchio. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Chi è mamma? Chi è? Chiede Nedo. È Celentano, il preferito di Siriana. Non mi piace, mettimi la canzone della casa. Ma no, dai, quella è brutta. Oh dai mamma, mettimi quella. Proprio sullo schiaffo di Celentano alla sua mancata amante, Antonella preme il tasto di uscita, producendo un suono sbilenco. Estrae il disco e lo rimette nella foderina. Poi sfoglia le decine di 45 giri collezionati da quando è ragazzina e ne prende un altro. Stavolta la canzone comincia con una specie di marcia sincopata e un corretto maschile. La voce femminile che inizia a cantare è più allegra e squillante di quella di Celentano. Antonella le va dietro, la conosce a memoria. Se vorrai andare nella steppa, tu dovrai cercare casa ciò. Questo è il nome di un piccolo cosacco, il suo ballo a tutti insegnerà. Sul ritornello Antonella continua a cantare, imitando male la voce di Dori Ghezzi, mentre i bambini tengono il tempo con le mani. Nedo è ancora negato, ma Mario ce l'ha il senso del ritmo. E chissà giudo quando crescerà. Casa ciò è il ballo della steppa, balla balla, il freddo se ne va. Mamma, cos'è la steppa? Boh, Vittorio, cos'è la steppa? La steppa è una specie di foresta in Russia. E cos'è la Russia, babbo? È un posto bello, dove ci stanno i compagni anche se fa freddo e non ci vanno al mare, no, loro vanno a sciare. Mentre Nedo è quello delle mille domande, Mario è sempre taciturno, sta lì in un angolo con capitalismo in mano e lo accarezza per tranquillizzarlo del viaggio in macchina e di quella matta di sua madre che canta a squarciagola. Guido dorme nonostante la confusione. Quando finisce il pezzo, Nedo chiede di rimetterlo. No, ora mettiamo una canzone per il piccolo Giudo. No mamma, quella lagna no, la metti sempre, si lamenta Mario. Non ha ancora finito di parlare che la voce di Judy Garland riempie la macchina. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Mamma, cosa dice? Boh, chi lo sa. Vittorio, cosa dice? Dice che i bimbi che fanno troppe domande fanno una brutta fine. Nedo si zittisce subito. E qui ci rendiamo conto già del tono e soprattutto di questa famiglia, no? intorno a Guido, ma anche di questo simbolo, di questo coniglio che si chiama capitalismo, che poi nel libro apparirà una coniglia che si chiama globalizzazione. Ecco, sì. Quindi se ce ne parli un po'. Sì, no, perché alla fine, ora non voglio dire niente della trama, però alla fine ovviamente passando 30 anni le cose cambiano e quindi dal 69 al 2001 insomma sono cambiate alcune cose, non troppe secondo me, però nel linguaggio sono cambiate tante cose e quindi quando ci si ritrova a dover dare un nuovo nome alla nuova coniglia, che è una femmina, viene chiamata globalizzazione. Volevo dire una cosa, questo riferimento alle canzoni e in particolare a Over the Rainbow, no? Perché mi sono scordato di dire che ogni nascita che avviene è legata a un evento accaduto proprio il 22 giugno del 69 e i bambini vengono influenzati ciascuno da un evento accaduto questo giorno. Quindi Guido, che la mamma vuole che faccia il cantante, è influenzato dalla morte di Judy Garland, che avvenne proprio il 22 giugno del 69 a Londra, e quindi lo vede come una specie di reincarnazione di Judy Garland. Giulia invece la canonizzazione di una santa, Santa Giulia di Billiard, quindi si chiama Giulia per quello, e Jerry invece da un grandissimo concerto che c'è stato, The Grateful Dead, a Central Park, sempre il 22 giugno del 69, quindi prende il nome proprio da Jerry Garcia, che è il cantante dei Grateful Dead. Sì, no, che tra l'altro queste, soprattutto nella parte iniziale, ci sono tante pagine dedicate proprio alla loro nascita e anche alla scelta dei nomi, no? Di quanto sì, è importante, non solo, vabbè, la carta astrale di ciascuno e questi eventi che raccontavi te, ma anche la scelta dei nomi. Quanto poi sei arrivato a, cioè, ce li spieghi questi percorsi anche di caratterizzare questi tre personaggi attraverso i loro nomi, no? Giulia Paola si doveva chiamare Tosca, cioè Sì. tutta la discussione sulla scelta di un nome, poi diventano proprio i tre pilastri di questa storia. Sì, allora praticamente Jerry prende il nome da Jerry Garcia perché la mamma è invasata, ha la botta, cioè, sotto acidi, e partorisce a Central Park durante il concerto. E quindi subito gli viene in mente di dargli il nome Jerry e sarà felice, dice lei. Poi insomma felice non sarà tanto, però. Giulia invece in realtà si deve chiamare Tosca, poi praticamente lei partorisce in una clinica privata a Assisi e c'è questa suora un po' entrante. Che gli dice: no, ma Tosca, ma brutto, ma mettiamo, gli metta nome Giulia, che ora c'è la canonizzazione, Giulia. E poi non solo Giulia, ma anche Paola, perché Paolo era Paolo VI, il Papa, e quindi gli mette anche il nome del Santo Padre, e quindi gli tocca questo nome Giulia Paola. E Guido invece ha una storia un po' più particolare, perché quando nasce la madre pensa che sia una femmina, quindi la vorrebbe chiamare Giudi o Giuditta, perché all'epoca non si potevano mettere nomi stranieri e quindi aveva iniziato a Giuditta. Poi invece quando vede che è un maschio, perché all'epoca si sapeva quando nasceva, e pensa a come lo può chiamare, lo vuole chiamare Giudi, Giuda, no? Dice: ah, lo voglio chiamare Giuda, non esiste, nessuno si chiama Giuda, è un bel nome, e di cognome si chiama Vox. E quindi Giuda Vox, senti che bel nome. E quando invece il padre va all'anagrafe, la signora gli dice: ma scusa, ma sei sicuro che lo vuoi chiamare Giuda come più grande traditore? E allora poi ci mette poco, e quella dell'anagrafe lo convince a chiamarlo Guido invece che Giuda, insomma. Sì, ecco, e queste tre famiglie, no, di origine, se ci parli un po', anche di questi genitori, perché poi diventano fondamentali nella vita di tutti e tre, soprattutto, diciamo, per alcuni più la madre, per alcuni più il padre, e credo che in tutta la storia, dall'inizio, naturalmente, nascono e quindi sono molto presenti, no, quando sono piccoli, poi nella loro crescita, nel loro percorso di formazione, questi genitori quasi spariscono, no? È un Sì, togliere. rimangono sullo sfondo, Sì, come nelle nostre vite, no? Succede certo, così, quando sei piccolo sono tutto il mondo, poi piano piano. no. E rimangono anche come fantasmi, devo Sì, dire, no? perché Queste ovviamente. ombre Sì, naturalmente sì. giganti. Se ce ne parli un po', perché come dicevi, sono tre Sì. famiglie molto precise, anche caratterizzate politicamente, no? Per arrivare poi ai giorni nostri. Sì, cioè allora Guido, che è la famiglia popolare, il padre lavora a Pontedera alla Piaggio e quindi è operaio, la mamma è casalinga e abitano in una casa un po' sbilenca con un orto appunto pieno di animali, è proprio una famiglia che si ispira un po' vagamente alla mia, nel senso che io ho queste origini qua e quindi quando pensavo alla casa pensavo alla mia casa, quando pensavo all'orto di quando ero piccolo, eccetera. E in realtà cioè, è tutto più sottile di quello che sembra, nel senso che inizialmente sembra appunto anche questo padre che inizia a impegnarsi politicamente in fabbrica, poi in realtà ci sarà una svolta che si capisce che non è così univoca la visione politica delle cose. Per quanto riguarda Jerry, invece, la famiglia di Jerry, appunto questa mamma fricchettona che scappa e che poi però a un certo punto per un problema è costretta a ritornare a Livorno da questo padre molto ingombrante, ricco, e quindi va a stare da lui e quindi Jerry cresce in un ambiente un pochino più protetto, diciamo così, anche se è quello che ha più problemi. Giulia invece è quella che a me fa ridere perché capita in questa famiglia di cattolici, padre soprattutto di Assisi, molto, molto quasi integralisti, no? E quindi lui invece di insegnargli le leggere le filastrocche gli fa recitare le preghiere, quindi la bimba sa tutti i santi umbri a memoria perché lui è fissato con l'Umbria, quindi il padre la indottrina in questa cosa qua. Quindi inizialmente la bambina fino a quando ha 6 alle elementari segue questa cosa del padre, poi piano piano, come succede a tutti noi, magari ragioniamo un attimino e ci stacchiamo da questa cosa. E magari leggiamo la cosa di Giulia Sì. Alessandra. Sì, te lo dico. E questa è tanto è breve. Pagina 20, da 2 fino alla fine della pagina 6. E qui è quando Giulia viene partorita, insomma è stata partorita ad Assisi e tornano alla casa di Livorno, la madre e il padre. Una settimana dopo il parto ad Assisi, la signora Giuseppina Torrigiani, detta Pinuccia, il marito Francesco Pannacci e la loro bambina tornano nella casa di Livorno, un appartamento modesto ma ben tenuto in via Fratelli Cervi, nel cuore del quartiere popolare di Corea. Pinuccia è ancora stanca del viaggio e dentro di sé incolpa il marito che ha preteso che partorisse ad Assisi, città d'origine di tutti i Pannacci, anziché a Livorno, città a detta di Francesco di ignoranti, comunisti e morti di fame. Il parto è stato un incubo. Giulia, in relazione inversamente proporzionale al corpo della madre, è nata di 4 kg e 200 grammi e una testa di notevoli dimensioni ereditata dai pannacci. La neonata nella sua culla tiene gli occhi ben aperti. La stanza è ridipinta e arredata dal padre durante i mesi della gravidanza. Una stanza che prima serviva da studio e inaspettatamente ha dovuto cambiare destinazione d'uso è bianca, sobria, come pure la culla. Le pareti sono spoglie, a eccezione di due grossi quadri con le facce di San Francesco e Santa Chiara, circondati da cornici d'oro che fanno pandan con le aureole. Accanto alla culla c'è una grande giostra delle api in legno massiccio, fatta costruire dal falegname che abita in fondo alla strada. Ma al posto delle api, Francesco ha ritagliato alcune sagome in cartoncino dei suoi santi umbri preferiti. San Tercolano scorticato e decapitato, San Lorenzo bruciato sulla graticola, San Costanzo di Perugia immerso dentro un pentolone d'acqua bollente, San Tubaldo pieno di pustole biancastre, San Crescentino che arde illeso in mezzo al rogo, San Ponziano trafitto da una spada e San Sebastiano col corpo martoriato da decine di frecce. All'obiezione della moglie, che pure proviene da una famiglia religiosa, se quell'opera destinata agli occhi di una neonata non gli sembrasse troppo violenta, il marito ha risposto che era un bene che la piccola si abituasse alle storture del mondo, all'estremo sacrificio nel nome del proprio credo. Pinuccia ha lasciato perdere. La vita scorre come al solito a casa Pannacci, con l'aggiunta di un 4 kg e 200 grammi in più, che ben presto diventano 4.500, poi 4.700. Giulia pare essere l'unica neonata che non perde peso nei primi 10 giorni, anzi, Pinuccia è contenta, aumentando il volume del corpo si nota meno il testone, perché si sa, sì, è una bella bimba, piena di salute, e questo è l'importante, ma una mamma si accorge anche dei difetti. Paolino, il figlio dei vicini di casa, quando ha visto Giulia per la prima volta, se ne è uscito con un "che chiorba" che gli ha fatto guadagnare uno schiaffo secco sulla bocca da parte della madre. Grazie, no, stupendo. Sì, il registro è questo, è molto divertente, sì, ma anche nella prima parte, sì, ecco, sì, soprattutto la prima parte, ma anche drammatico. E poi io ci vedo anche queste sfumature del livornese, insomma, comunque di questa città, no? Con luce e ombre. Ecco, su Livorno e su anche la tua formazione, poi, no? Sul tuo percorso, sei traduttore, insegnante. Insegnante fondamentalmente. Traduttore ho fatto 3 anni, però sono insegnante. Però anche autore teatrale, sì, no? Cioè, sì. Quindi ci sono queste cose dentro. Anche la forma, forse, la ricerca di come è strutturato questo romanzo, i riferimenti già musicali che ci dicevi, anche riferimenti cinematografici. Ecco, sì. Se ci vuoi parlare un po' di... Ma sai, quando uno scrive un romanzo, per quanto mi riguarda, ci mette tutto quello che... No, non tutto, però ovviamente parte da quello che conosce, da quello che sa meglio. Quindi ovvio, quando ho dovuto parlare di luoghi, di Livorno... Anche per questo è ambientato a Livorno, perché comunque è il posto che conosco meglio, te lo sai bene, perché tante tue cose sono ambientate in Mugello, perché sei di lì, e quindi quando un autore si trova a dover scrivere un romanzo si chiede sempre dove lo possa ambientare. Subito la prima cosa che ti viene in mente è la tua città, ma non perché vuoi parlare della tua città, ma perché la conosci talmente bene, le dinamiche, i luoghi, che alla fine viene ambientata lì. Livorno, insomma, è una città con cui io ho un po' di... lo dicevo prima a Simona, insomma, un rapporto un po' conflittuale con questa città. È una città che mi piace molto, i livornesi mi piacciono meno per delle cose. È una città però che ho vissuto tanto, in cui ho studiato, ho lavorato. E niente, quando... mi sono scordato cosa mi avevi chiesto, però la domanda, non solo no, di Livorno. Sia sul Livorno, ma anche sulla mia esperienza. Formazione. Sì, quando vado a scrivere un romanzo, ovviamente, per esempio, avete già sentito che ci sono un sacco di dialoghi, no? Anche il dialogo in macchina, eccetera. Questo ovviamente viene dalla mia formazione di autore teatrale, che io scrivo e dirigo testi teatrali. E quindi questa cosa ovviamente mi piace tanto scrivere dialoghi, cioè la cosa che mi viene più naturale da fare quando scrivo un romanzo, e quindi questo ovviamente si riversa in questa cosa qua. Ovviamente, che ne so, io ho studiato all'università, ho studiato lingue, ma in realtà mi sono occupato di cinema. Quando è venuto il momento di mandare i ragazzi all'università, uno dei tre ovviamente ha fatto studi cinematografici, perché ovviamente mi tornava bene a me fare quella cosa lì. È ovvio che non puoi raccontare solo le cose che sai bene, quindi magari uno studia chimica, che io chimica non ne so niente, però ovviamente c'è sempre qualcosa di me che appare in ciascuno dei personaggi. In realtà Per certe cose sono Giulia, per certe cose sono Jerry, per certe cose sono Guido, ovviamente. Non so, io penso che un romanzo poi alla fine sia, cioè, un riassunto dell'autore, di com'è l'autore, di cosa ha fatto l'autore, della vita dell'autore, dei luoghi che vive, della famiglia dell'autore. E quindi del romanzo c'è tantissime cose che mi riguardano e che riguardano i miei amici, la mia famiglia, la gente magari non lo sa, non l'ha ancora letto perché è uscito da poco, ma qualcuno ci si ritroverà in una battuta, per esempio quando sono al liceo, mi sono ispirato a dei personaggi che conoscevo al liceo, ovviamente. Quindi mi sembra normale, non penso sia così per te, penso per tutti, non lo so. Sì, no, sulla forma, continuando, no? Perché sì, è vero, i dialoghi infatti secondo me sono centrali in questo romanzo e sono veramente riusciti, ma c'è anche tutta una parte epistolare, no? E di lettere. E lì cambia anche proprio il registro, perché si fa soltanto si torna anche indietro, no? Nel tempo. È l'unico momento in cui si torna indietro, perché sennò questo romanzo segue tutto un percorso molto lineare, quindi dalla nascita alla crescita di questi ragazzi. Lì si torna un po' indietro. Come è stata questa scelta? E perché lì le lettere, sì, si capisce, sono distanti, hanno bisogno di comunicare, ma appunto, come mai hai scelto allora, questo? Allora, la scelta di usare la parte epistolare viene dal voler dare finalmente una voce, un punto di vista ai personaggi, perché il romanzo è raccontato tutto in terza persona, al momento che loro scrivono le lettere scrivono in prima persona. E quindi mi piaceva dare un cambio. Il romanzo è abbastanza lungo, è più di 350 pagine, quindi dopo più di 200 pagine, anche di più, volevo dare un attimino un po' di respiro al lettore e fargli vedere le cose da un altro punto di vista, non solo da una visione esterna. Quindi l'idea di scrivere le lettere ovviamente era dettata da questa esigenza di voce, di punto di vista, e da un'esigenza pratica, perché i tre si ritrovano: Guido rimane a Livorno, Jerry per motivi vari va in America, torna in America in realtà, dove è nata, a New York, e Giulia va a studiare a Londra e a Birmingham, insomma in Inghilterra, e quindi devono comunicare, e all'epoca si usava le lettere praticamente, e quindi è stato questo motivo qua. In realtà inizialmente le lettere erano tutto un blocco, era la sesta parte del libro, perché il libro era in originale sette parti, cioè sei parti e un epilogo, diciamo così. Quindi l'ultima parte, quando loro sono alla fine dell'università, era tutta insieme. Poi in realtà abbiamo deciso di spezzarla e di dividerla in tre parti e di collocare queste lettere prima, come se fossero una prolessi, no? Quindi una legge delle lettere, capisce che dopo succede qualcosa, non capisce bene cosa succede, ma inizia a intuire che fra i tre è successo qualcosa che appunto non capisce, però si intuisce che c'è un prosieguo di questa storia praticamente. E quindi nulla, siccome era abbastanza lunga la parte delle lettere, abbiamo deciso insieme di cercare di metterla come anticipazione di alcune cose, e quindi dalla terza parte praticamente iniziano a partire questa serie di lettere. Insomma, non, so che non vuoi raccontare molto diciamo della trama, per non rischiare di fare spoiler e tutto, però ecco, come crescono e come cambiano questi tre da bambini, se ci vuoi dare qualche pennellata, sì, la faccio dire a te e non a me per non mi piacerebbe che tu la dicessi te, in realtà, però per lasciare qualche mistero, no, poi sì. Ti faccio, no, veramente dei commenti così per l'evoluzione di questi personaggi, no? Secondo me reggono l'impatto, no? Cioè, hanno delle trasformazioni e delle crescite interessanti ciascuno di loro, e poi appunto si intrecciano molto bene in queste lettere che si scrivono, e poteva rischiare di essere la stessa voce dell'autore, no? Che ritorna e si divide in tre, no? Invece lì acquistano anche più spessore ciascuno di loro, quindi sì. Veramente prendono la loro voce, e quindi esatto. Per quello, era questa, infatti, ed è sì. Anche lì il momento in cui spariscono le loro origini, spariscono le loro città, si entra proprio nell'intimità di questi tre personaggi, ecco, nelle loro fragilità, nelle loro forze, nelle loro debolezze, cioè tutti gli aspetti più intimi di questi tre che fino ad allora non avevamo poi troppo, come dire, conosciuto. Ecco, in questo senso il romanzo diventa anche più intimo, forse quindi la lettera diventa anche il modo di custodire, sì. No? Sì, allora, sì, ovviamente le lettere che si scrivono fra loro, considerate che sono bambini e sono cresciuti insieme per tutte le scuole, quindi c'è una grande confidenza fra loro. E quindi sono lettere sincere dal loro punto di vista, cioè sono lettere che cioè, loro si mettono a nudo anche a livello quasi imbarazzante per delle cose. E quello era il momento di dar vita a degli adulti, cioè alla fine loro scrivono le lettere quando hanno sui 25 anni, quindi insomma 25 anni non sei più un ragazzino, non sei più un ragazzo, sei già una persona abbastanza adulta, quindi alla fine del percorso universitario, dell'inizio della vita lavorativa, e c'era bisogno secondo me di dargli questa svolta qua, perché te li vedi l'ultima volta, li vedi all'inizio dell'università durante il 90, quindi durante la Pantera, l'occupazione della Pantera, e poi li rivedi 4-5 anni dopo, cioè li risenti nelle lettere, in cui loro si sono, per motivi che non vi sto a dire, si sono un po' separati, diciamo così, e quindi è anche il loro modo di rientrare in contatto fra di loro. E questo ovviamente comporta una serie di ammissioni e di, non so, di emozioni che loro provano e che cercano di condividere con gli altri. Però non è così facile poi nei rapporti personali. Non basta essere chiari a volte entrano in gioco delle dinamiche che vanno al di là di quello che noi vorremmo, no? Perché alla fine sono tre teste pensanti, tutte e tre abbastanza intelligenti e ognuno di loro vuole qualcosa. In realtà quello che dicevi della famiglia, del fatto che sì, rimane sullo sfondo, ma alla fine, se ci fai caso, fino alla fine c'è sempre la famiglia, cioè io penso che la famiglia poi sia alla fine quello che ci influenza più di tutto, e anche da adulti, anche se noi ci stacchiamo dai nostri genitori, magari ci litighiamo e non ci parliamo più, però è sempre qualcosa che abbiamo alle spalle, e quindi sono sempre tutti e tre molto influenzati dal padre bacchettone fissato con la religione, dalla madre che era ficchettone e che non lo è più e che magari si è risposata con uno che a lui non piace, con la perdita, perché il libro parla anche ovviamente di perdita, perché in 30 anni ovviamente capitalismo è nella prima parte, per esempio nel 69 non dura fino al 2001, no? Quindi a un certo punto muore, come lui ci saranno altri personaggi che non ci saranno più. E questa cosa ovviamente è l'altro lato del romanzo, che sia un tono da commedia, ma sotto c'è sempre questo discorso della perdita. In realtà la perdita è un tema fondamentale, perché il bambino che nasce a New York, Jerry, non sa chi sia il suo padre, perché la sua mamma prendeva gli acidi, andava a giro per le tournée e andava a letto con chi capitava, quindi non si sa chi è il padre. A un certo punto il padre di Guido sparisce, poi non sto a dire di altre cose perché non voglio fare spoiler, però diciamo che per tutta la vita loro quello che l'accomuna è proprio il discorso della mancanza, della perdita, e quindi questo dà sempre un tono un po' agrodolce alla questione, insomma. Sì, poi nelle lettere, ora ti avevo fatto anche la domanda della tua formazione e anche della tua professione di insegnante, perché secondo me poi via via crescendo, no, ci si stacca un po' da quella da quell'idea del momento dell'adolescenza, invece tu lo rirendi vivo, ecco, per cui ti chiedevo se il confronto continuo con gli studenti, con avere continuamente l'orecchio allenato, no, ai discorsi dei ragazzi, perché qua si sentono proprio le voci, no? Cioè, è talmente vivo, non solo per la tua capacità di dialogo, che appunto naturalmente si spiega anche per la formazione teatrale, che naturalmente è più impegnata su quella diretta, eccetera, ma dietro c'è anche questa sensibilità, secondo me, all'ascolto della voce giovanile, che qui ritorna, perché potremmo pensare, no, questi ragazzetti, l'infanzia, va bene, ognuno di noi ce l'ha abbastanza vivida e lo ricollega in un percorso di crescita di questi tre bambini, però ecco, questa forza si mantiene anche nell'adolescenza, anche nei ragazzi, anche poi nella crescita. Cioè, hai mantenuto viva questa tensione, e non so se è collegata alla professione che fai o se c'è anche altro che ci vuoi dire. Allora, due cose. Allora, la professione che faccio, insomma, faccio l'insegnante di inglese alle medie, ormai da quasi 20 anni. È ovvio che stando sempre con bimbi di 11, 12, 13, 14 anni, qualcosa ti lasciano, e io sono molto attento alle loro vicende. Io già ho notato, per esempio, come siano cambiati già da quando ho iniziato a insegnare, che quasi 20 anni fa insegnavo all'Elba, sono venuto a Livorno e ho visto proprio il cambiamento che c'è stato in quel periodo della preadolescenza dei bimbi di 20 anni fa, 15-20 anni fa, con i bimbi di ora. Il fatto che ci siano i telefonini, questa cosa qui ha cambiato tantissimo, perché lì sarà all'inizio, nel 2001, e ora invece sono preponderanti. Io sono sempre molto attento alle loro dinamiche, cioè a quello che pensano, a come crescono, sempre, quindi ce l'ho sempre molto ben presente, quest'età qui in particolare, cioè dagli 11 ai 14 anni. Poi secondo me scrivere di infanzia, io mi è sempre piaciuto, cioè è una cosa che mi piace molto scrivere di bambini, anche negli altri romanzi che ho scritto, nei racconti, spesso ci sono figure di bambini. Perché? Perché è quello che conosciamo tutti in realtà, no? Cioè io posso parlare con te che hai 25 anni, con lui che ne ha 70, con lui che ne ha 50, e ognuno di noi ha un ricordo precisissimo della propria infanzia, quindi è veramente l'età che accomuna tutti. Quindi secondo me la cosa interessante è descrivere dei modi di sentire, delle emozioni di questi bambini o ragazzini che hanno una vita loro particolare, ma che però ognuno di quelli, delle persone che lo leggono, possono secondo me ritrovarci, sì. Cioè io sono sicuro che anche te in dei momenti, ora te sei più giovane di me, però in dei momenti delle elementari, di gioco, di medie, di, secondo me delle cose ci hai rivisto, cioè ti ha fatto venire in mente delle cose della tua scuola media, elementari, e quindi questa cosa mi ha sempre molto interessato, perché se io, a parte che io ho 50 anni, quindi posso scrivere anche, ovviamente, le ho scritte di persone più grandi, di 70-80 anni, però lo posso fare con un occhio esterno. Mentre un periodo come l'infanzia o la giovinezza mi sono molto familiari perché li ho vissuti, e secondo me l'infanzia e l'adolescenza sono quelle cose che accomunano tutti, e quindi secondo me cioè, sto molto attento quando ci scrivo, cerco di stare attento a, appunto, a suscitare delle cose, cioè a suscitare in ciascuno delle cose tramite il generale, cioè tramite il generale fare entrare le persone nel loro specifico vissuto e fargli ricordare delle cose praticamente. Sì, tu dicevi che uno dei temi centrali è la perdita, c'è anche, direi, la malattia, no? Immagino anche, voglio parlare solo di Jerry o così, ma anche della mamma di Giulia, Pinuccia, no? Questa, poi appunto tutte queste persone così sorridenti, e poi c'è questa depressione e questo personaggio che non reagisce, no? Piano piano si spenge. Ecco, se ci dici un po' anche questa dimensione qua della malattia, di come ciascuno di loro poi l'affronta in maniera diversa, no? Sì. E però è un punto di confronto di tutti e tre. Sì, c'è un personaggio che appunto a un certo punto si ammala, e anche lì la malattia, purtroppo, come la perdita, no? A parte per le persone più giovani, è una cosa che accomuna quasi tutti. E quindi, ovviamente, mi ha toccato sia la malattia che la perdita dei miei genitori, di tutti e due, e ovviamente quando pensavo a questa mamma che stava male così, ho pensato alla mia mamma, ovviamente, no? Anche se non ero bambino, ero già adulto, però è ovvio che appunto fai riferimento sempre a quei sentimenti lì. Sai, alla fine, cioè, la vita è questa qui, cioè, nel senso, alla fine ti devi trovare, cioè, per me è stata la morte di mia mamma, che è successa un po' di anni fa, è stata ovviamente un grande scalino, no? Penso per tutti, ovviamente, io non è che voglio dire che io sono più, però per me mi ha fatto capire tante cose, cioè mi è cambiata proprio la visione della vita, delle cose. C'è chi gli succede presto, c'è chi gli succede tardi, c'è chi gli succede a 12 anni, io ho degli alunni precocissimi che parlano di morte, di assurdità della vita, di universo, già a 12-13 anni, che io a 12-13 anni dormivo, non capivo nulla. C'è chi lo scopre più tardi, appunto, la finitezza della vita. E il romanzo è un po' permeato da questa cosa, perché poi c'è anche il babbo da vecchio che si ammala e quindi lei lo deve accudire. E non lo so, boh, penso che sia un po' appunto con l'amicizia, l'amore, il sesso, la perdita, la morte, la malattia siano parte delle vite di tutti. E quindi alla fine, quando parli di una vita, di un protagonista di un romanzo, secondo me c'entra bene anche quello. È ovvio che magari sono momenti, magari poi leggiamo anche un pezzettino del funerale. Sì, vieni. Praticamente quello che ora vi leggo è un pensiero di una cosa molto breve, il pensiero di un protagonista quando gli muore la nonna, praticamente, e si ritrova a dover affrontare il discorso appunto del funerale, dell'organizzazione delle cose, e questi sono ovviamente inizialmente nel romanzo non si capiva chi è che lo pensava, poi l'ho attribuito a un personaggio, però in realtà sono i pensieri che ovviamente vengono da me. Quando ti trovi davanti a una morte, devi fare i conti non solo col lato emotivo ma anche col lato pratico delle cose, e quindi è venuto fuori questo, ci sei? Sì, questo piccolo brano, insomma. Vai. Chissà se voleva essere sepolta così, nella terra, o se preferiva uno dei loculi in alto, pensa Guido. O magari voleva essere cremata, non c'è modo di saperlo. Quando era viva non ha mai detto niente. Sono quelli che rimangono, siamo noi a dover prendere le decisioni, sperando di non venir meno alle aspettative del morto, come se poi contasse qualcosa. C'è da chiamare i parenti e gli amici, comprare la bara, accordarsi con le onoranze funebri, decidere il tipo di sepoltura, scegliere fiori, la foto da mettere sulla lapide, parlare con quelli del cimitero, stipulare un contratto per la lucina sempre accesa, pubblicare il necrologio sul giornale, poi nei giorni che seguono adempiere a tutta una serie di impegni che hanno a che fare con la banca, l'anagrafe, la pensione, la casa, l'automobile, cose di cui si farebbe volentieri a meno, ma non si può. C'è sempre qualcuno che si sacrifica, che rinuncia a concentrarsi sul lutto e sulla perdita, sui ricordi dei giorni migliori per affrontare i problemi pratici che non possono essere rimandati. O forse non è un sacrificio, è una scelta per pensare ad altro e provare a soffrire di meno. E poi, dopo che il morto è sepolto, si passa alla spartizione degli oggetti che riassumono nella loro concretezza tutta una vita, le fotografie innanzitutto, ma anche oro e argento, i ricordi di chi sta a quale viaggio, una Madonnina in gesso colorato, i dischi e i libri, un ritratto, il diploma, un orologio, uno specchio, una sciarpa, un paio di ciabatte, il pacchetto di sigarette lasciato a metà, un gatto rimasto solo. In tutto questo consiste la vita dopo la morte, per chi non è credente, nella sicurezza vuota delle cose e nella nostalgia del ricordo passato. Il credente, invece, si illude. Grazie. Senti, no, ti chiedevo dei riferimenti cinematografici perché naturalmente sia nel libro sia leggendolo, insomma, a un certo punto compare Jules Jim, no? Ecco, se c'è un riferimento, io mi sono anche chiesta se dopo questi tre personaggi arrivano verso i 30 anni, se poi non ci fosse qualcosa anche di C'eravamo tanto amati, perché un po'... No, questa storia a tre mi ha fatto pensare anche a loro, naturalmente lì li seguiamo più dopo, lungo, no? Sì. Più adulti e più a lungo. Ecco, no, se ci dici un po' di questo... No, allora, Jules Jim è uno dei miei libri, cioè dei miei film preferiti, nel senso che quando studiavo cinema mi ricordo, c'è la descrizione di una scena di Guido che è a San Matteo, che era il dipartimento di cinema e teatro di Pisa, che ho frequentato anch'io, e che lui si stupisce, no, di come anche guardare un film possa essere considerato studio, no? Perché gli piace talmente tanto, e è la stessa cosa che provavo io, cioè nel senso che io le mattine mi rinchiudevo in queste aulette con la cuffia e mi guardavo film, e per me era, cioè non era studiare, era un piacere talmente grande che mi sembrava impossibile. E quando vidi Jules Jim per la prima volta mi ricordo che rimasi folgorato da questa cosa, e quindi ovviamente siccome è la storia di due uomini e una donna, un triangolo amoroso diciamo così, è ovvio che ce l'ho voluto mettere come riferimento per dire guardate, lo so che l'ha già raccontato Jules Jim questa cosa, no? Insomma, come per dire lo so, e il riferimento è preciso a quello. E siccome appunto uno dei due studia cinema, ci sono molti riferimenti cinematografici a, diciamo, al cinema più de sé, diciamo così, no? Meno popolare. E per me è stato, per me che venivo da una famiglia popolare in cui comunque il cinema era sempre stato divertimento, era sempre stato intrattenimento, improvvisamente studiare questa forma d'arte per me mi ha veramente aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo e ho cominciato a scoprire delle cose bellissime. E da lì non me ne sono più staccato, perché anche quando ho finito gli studi comunque ho continuato, poi dopo ho fatto il dottorato di ricerca a Genova e anche lì ho fatto una tesi sulla sceneggiatura, quindi questa cosa del cinema mi è rimasta sempre molto molto ben impressa. E secondo me quello che mi dicono le persone che leggono i miei libri è una delle caratteristiche che ci trovano è che sono molto visivi, cioè che comunque pur non indugiando su delle descrizioni molto lunghe, però le persone riescono a vedere le cose, cioè le scene, le persone, i luoghi. Questa è una cosa che mi hanno sempre detto da quando ho iniziato a scrivere, e io credo sia proprio perché sono influenzato dal cinema, cioè perché io quando scrivo una scena io me la vedo, cioè me la vedo, e anche nella descrizione di, non so, se io dovessi descrivere ora questa scena, magari partirei da te, vedrei farei un accenno a voi che state ascoltando, poi mi sposterei e vedrei il chiostro, no? E vedo magari i murales, cioè c'ho sempre questo modo di vedere le cose che è molto cinematografico, perché per tanti anni ho guardato film, e quindi evidentemente, senza volerlo, quando io vado a scrivere ripropongo questa dinamica qui del cinema. Credo che sia una delle influenze del romanzo e dello stile, a parte i dialoghi del teatro, sia anche proprio la parte visiva cinematografica. Non so se sei d'accordo, però sì, no, mi sembra. Poi riflette anche le forme che hai scelto e che caratterizzano poi le diverse parti, no? Sì. Si va un po' proprio la presa, la lettera si ritorna sull'intimo e ti serve quel modo lì, i dialoghi per tornare sul teatro, però ecco, ce li vedi molto questi tre personaggi nello spazio, cioè nella fisicità, proprio di dove li collochiamo, no? Sì. Di dove stanno, di dove interagiscono con gli altri, e in questo senso qua. E fisicamente direi che rimane impresso il rosso Jerry, no? Cioè sì, questa cosa del rosso mi ha colpito particolarmente quando dici in quel pezzettino perché si dicono i pesci rossi e perché cioè si dicono arancioni, perché si dicono anche dei capelli rossi, i gatti rossi che sono i arancioni, gatti rossi, no? Che sono arancioni, no? Perché fino a che non si è parlato delle arance e non si è scoperto poi alla fine l'arancio, non si è dato il nome a quel colore, no? È bella, infatti, questa cosa, cioè, no, è bella la stessa dei colori, è affascinante. Bellissimo, e poi ci ha ritrovato anche la tua molto attenzione, forse sia ai nomi dei personaggi, no? Che alle caratteristiche, a questa cosa del poi io, senso del colore, ci sono molto affezionata. E mi è venuto in mente un episodio mio di quando mio fratello da piccolo aveva comprato un pesce rosso, no? E la vicina di casa gli fece: ma già ne ha comprato un pesce rosso, non è rosso, è arancione. E effettivamente mi ero sempre chiesto, no? Questo cacchio di pesce, perché arancione si diceva pesce rosso, e grazie al tuo libro, no? Effettivamente ho riflettuto sulle arance e su questa caratteristica, ecco. Gli altri me li figuro me, cioè è bellissimo perché c'è questo Jerry rosso, appunto, capelli rossi, e lui spicca, no? Fra i tre per questa sua caratteristica. Non lo so se era voluto o no, se allora, però ecco, no. È quello che come sul colore mi è rimasto più impresso, e quindi ce lo vedo. No, allora, in realtà secondo me da piccola quella che viene descritta meglio è Giulia, che c'ha il testone, l'orecchio a sventola, no? Sì, lì quando poi ce l'hai letto, però appena nata, sì, e poi sì, si sì. Pensa tutti e neonati poi cambiano. Certo, sì, gli rimane un po' il testone, però vabbè, e anche le orecchie le rimangono. Però secondo, allora, questo non lo so, ci sto pensando ora mentre te lo dico. Secondo me è perché Jerry, appartenendo anche invece a un ceto sociale diverso da quello che conosco meglio io, forse per quello sono riuscito magari a descrivere meno la parte più sociale di Jerry, e quindi forse viene più fuori questa parte fisica del rossino con le lentiggini, un po' secchino, un po' patito, perché ovviamente non sta bene di salute, e quindi forse rimane impressa quella cosa lì, perché poi secondo me nel romanzo è una cosa che conta molto, questa sua emaciatezza si dice, questo suo essere bianco, insomma, ritornerà poi nel romanzo, e quindi è quello che fisicamente nel romanzo rimane più impresso, probabilmente sì, e forse è quello che rimane meno impresso da un punto di vista di ambiente sociale, perché sì, ci sono dei riferimenti alla villa del nonno, però anche sul lavoro del nonno faccio veramente pochi accenni, forse perché è quello che mi è più lontano da me, e quindi forse ho privilegiato più un aspetto quasi fisico, no? Non lo so, fa degli studi diversi da me, studia chimica, è proprio un altro tipo, e quindi evidentemente è successa questa cosa qui senza volerlo, ovviamente. No, vabbè, poi è da lettore, no? Cioè, ciascuno gli rimane impresso, ecco, però io ce lo vedo, lui proprio me lo figuro bene, benissimo. E secondo me poi è anche come si gioca sul perno delle loro relazioni, che poi insomma spicca abbastanza. Voglio tornare un attimo sulla questione politica, no? Perché queste tre famiglie, come ci ha detto, la loro condizione sociale è molto forte nella prima parte, poi loro crescono, prendono i loro tre percorsi distinti e poi c'è un momento, e siamo quasi sul finale, che gli si riaccende questa passione politica, sì, no? Che sarà un po' assopita, sì. Sembra un po' il percorso, come dire, gli anni 80-90 li abbiamo un po' lasciati correre, no? Sì. rispetto al passato e da quello da cui venivano, e sentono comunque il dovere di rimettersi in gioco, no? E di proseguire. Ecco, se c'è, come l'hai costruita questa cosa, se c'è questo riferimento agli anni per cui si è scelto anche, no, di stare più sulla loro intimità, la loro relazione, proprio perché è un po' un ritiro, no, lì, una risacca sulle questioni politiche, si parla proprio più sulla loro intimità, sulle loro vite, e poi questo riaccendersi. E arriviamo al 2001. Sì, allora, io non volevo fare tanto spoiler, no, però... No. Allora, per gli anni. Allora, sì, no, allora, ovviamente, vabbè, negli anni 69, ovviamente, gli anni 70, gli anni delle lotte operaie, quindi c'è tutti dei riferimenti a quegli anni lì, uno, appunto, il babbo di Guido che lavora in fabbrica, eccetera. Poi quando loro crescono, quindi dal liceo, che fanno l'occupazione al liceo, e poi soprattutto all'università, perché loro partecipano al Movimento della Pantera nel 90, perché praticamente ogni parte è ambientata in un anno preciso, quindi 69, 75, 82, 86, 90, 94. Questi sono gli anni, e poi 2001 che è la fine. Il 90 praticamente è l'anno delle lotte della Pantera, a cui io ho partecipato ovviamente, e quindi mi è molto chiaro quel periodo lì, a 20 anni, insomma, il grande, non lo so, la grande speranza, no, di poter cambiare le cose, che ovviamente poi crescendo, per come vanno le cose, per come va la tua vita, no, cambiano, cioè semplicemente non è che passano, ma cambiano, quindi ci sono dei periodi nella tua vita in cui te sei più attivo politicamente e altri meno. Diciamo che loro hanno sempre subito questa cosa qua, poi gli ritorna verso la fine dei 20 anni, 30 anni, perché ovviamente nel 2001 sapete tutto, appunto, la globalizzazione, il Genoa Social Forum, eccetera, gli torna questa cosa qua, come è tornata a me in realtà, perché anch'io ho fatto parte, appunto, di movimenti di lotta fino agli anni 90, diciamo così, fino a che poi non mi sono laureato, eccetera. Poi mi sono un po' ritirato perché, per vari motivi, insomma, personali, politici anche, perché poi, insomma, non è facile sempre tenere duro con la lotta, insomma, a volte ti scoraggia anche, come posso dire, non solo l'esterno, la politica esterna, ma ti scoraggia anche certe dinamiche che inizi a conoscere, insomma, alla fine ci sono anche molte delusioni, no? Cioè, bisogna essere forti per fare politica, secondo me. Politica, io intendo, non politica a livello istituzionale, politica di resistenza, se vuoi, eccetera. Cioè, poi anch'io mi è capitata questa cosa che a Livorno c'è stato un teatro, si chiama Teatro Officina Rifugio, che è stato occupato, è sempre occupato, nel 2006-2007, di cui ho fatto parte, l'ho costruito proprio perché non c'era niente, era come questo posto qua, infatti sono contentissimo di essere qua. Era una vecchia officina in un palazzo comunale abbandonata da decenni, che è stata occupata, e dopo un anno che era occupata, io e Alessandra siamo andati là, e noi veniamo dal teatro ovviamente, anche da formazione teatrale, e abbiamo creato dal nulla questo spazio che è diventato un teatro occupato. E questa cosa qui ovviamente ci ha molto riacceso la voglia di fare politica, applicata però a una cosa culturale. Diciamo che, per questo ti dicevo, anche con Livorno ho un po' di rapporti un po' particolari, perché purtroppo secondo me c'è sempre un pregiudizio invece da parte di chi fa politica spesso verso chi fa politica da un punto di vista culturale. Cioè, per me il teatro è una forma rivoluzionaria di cultura, cioè secondo me col teatro, noi abbiamo fatto degli spettacoli, si chiama Teatro d'Emergenza, che sono spettacoli che parlavano dalla violenza delle donne all'inquinamento ambientale, insomma tantissimi, ogni anno ne facevamo uno. Purtroppo c'è un po' di... delle persone sono prevenute sul fatto che questa, che anche questa, cioè il fatto di poter dire delle cose tramite il teatro o tramite la letteratura o tramite il cinema, sia una forma di lotta annacquata. Questo è stato il grande contrasto che poi ho avuto con tante persone con cui ho collaborato, perché a parte noi del teatro, cioè, abbiamo sempre visto un po' di resistenza da questo punto di vista. Cioè, dal punto di vista, cioè, c'è un pregiudizio sul fatto che chi fa cultura in realtà non fa una vera lotta politica. Ecco, io ovviamente sono completamente in disaccordo su questa cosa, però cioè, non è facile, ognuno c'ha il suo... c'è il suo modo di pensare la politica, cioè per uno una politica andà in piazza, non lo so, a manifestare, cosa che ho fatto per decenni e decenni e lo faccio ancora, per qualcuno è un'altra cosa, per me è usare in questo caso il teatro come forma di lotta politica, molto efficiente, efficace secondo me, perché te monti uno spettacolo, lo vengono a vedere in 200 persone e non sanno una cosa, l'ultimo che ho fatto si chiamava Africa, era sull'immigrazione, e magari te gli spiegavi delle cose di quello che succede in Africa, della Francia, di come ha sfruttato l'Africa, che uno sì, magari le sa, ma non le sa così. Quindi a quel punto lì 200 persone vanno a casa chiedendosi facendosi delle domande, più magari che leggere un volantino. E però secondo me c'è sempre un po' del pregiudizio da questo punto di vista nei movimenti. Ne parlo qui perché appunto mi sembra il posto adatto per parlarne. E niente, quindi per 12 anni abbiamo fatto parte di questo teatro Officina Refugio, io e Alessandra, l'abbiamo costruito dal nulla insieme ovviamente a un collettivo, poi ovviamente le strade sono andate da un'altra parte, da 2 anni non ci siamo più, il posto esiste sempre, non si chiama più teatro Officina, si chiama solo Refugio, quindi vabbè, è una storia che è iniziata, per noi è finita, però insomma... c'è tanti altri modi per poter fare le cose, insomma. Però sì, è normale che secondo me se uno ha degli ideali, comunque sullo sfondo c'è sempre la lotta politica o comunque un impegno che uno civile, che uno deve portare, ma anche nel piccolo, anche a scuola, nel lavoro, nel far riflettere gli alunni su delle cose, per esempio, no? Perché spesso anche bambini, ragazzini sono molto influenzati, che ne so, dai social, dalla televisione, magari non pensano. Allora solo farli pensare, no? A quello che dicono, dice, ma perché dice questa cosa degli zingari, no? Zingari ovviamente mettono d'accordo tutti, i Rom sono il popolo più odiato di tutti, no? È molto bilaterale questa cosa, da veramente da tante persone. E i bimbi ovviamente sono vittime anche di questa cosa. E gli dico, sì, ma sono ladri, ma cosa vuol dire? Tutti sono ladri, ma sei sicuro? Ma se li conosci tutti sono... E quindi questa cosa qui, magari avendoci anche qualcuno che li fa riflettere, poi io non li indottrino, gli dico, non li faccio pensare, gli dico, ma sei sicuro di questa cosa qui? Ma parliamone, no? Poi io vengo da una scuola multiculturale, c'è bimbi da tutto il mondo, quindi che è una cosa bellissima. Infatti secondo me questa cosa, cioè in Italia stiamo anche, se nelle istituzioni no, però a livello sociale secondo me è inevitabile che ci sia l'integrazione, perché è già così, cioè fra i bambini è così, cioè i bambini per loro è normale averci un bimbo di scuola, uno senegalese, un albanese, uno sudamericano, e quindi questa cosa per me è bellissima, come anche il discorso sulle differenze di genere, cioè bimbi ora, cioè io ho delle bimbe che a 14-15 anni dicono no, io dicono gender fluid, questa cosa qua, però pure che si dichiarano, io sono a 14 anni, 15 anni, cioè io sono lesbica, vengono a me professore, pensate, di 50 anni, sa no, perché professore sa, io sono lesbica, io buon per te, cioè nel senso, bene, sono contento che l'hai scoperto così presto, no? Quindi insomma, secondo me, se non istituzionalmente, però proprio da un punto di vista della vita reale, cioè dei bambini, dei ragazzini, le cose si stanno mettendo bene, secondo me. Cioè io sono molto ottimista rispetto a questa cosa qui. Bello, ho fatto un pippone, scusate, ma ha preso molto questo discorso qua. Insomma, di speranza, perché siamo a Festival di Letteratura Sociale, dove penso che sia l'impegno sociale e anche... insomma, che ci si rede poi alla fine nella cultura e anche nei libri, siamo qui giustamente a parlarne, e quindi bello anche che ci dà questo spaccato di speranza, ecco, sì. Perché di solito ci arriva tutti questi messaggi, come dire, non c'è, sul futuro, no? Non c'è... un germoglio. No, davvero, stando con i ragazzini di 12-13 anni ti rendi conto di com'è il futuro. Cioè, non è che dico che ora tutti i bimbi sono buoni, tutti i bimbi saranno buoni. Non dico questo, però dico che su certe tematiche, secondo me, stiamo iniziando a cambiare. Cioè, se io penso io quando ero alle medie, era molto peggiore la situazione, capito? E quindi non c'era nessuno che faceva coming out a 15 anni, a 16 anni, ma nemmeno a 18, cioè per dire, da questo punto di vista. Non c'erano bimbi stranieri. Io quando ero alle elementari, alle medie, non c'avevo, eppure abitavo in quartieri popolari, non c'avevo bimbi stranieri. Cioè, nel giro di 40 anni, 30-40 anni, è veramente cambiato tutto. Quindi ovviamente ci vuole un periodo d'assestamento. Però secondo me, dal punto di vista delle nuove generazioni, da questi due punti di vista, cioè dell'integrazione e del genere, cioè si sono già fatti tanti passi avanti, secondo me. Va di leggere un altro pezzo? Sì, per si legge una verse... cosa ferra. Sì, si legge. Ti fa quello di Siriana della cartomante. Sì. Allora, leggiamo un pezzettino in cui Guido è appena nato, e Guido è quello della famiglia popolare, e la mamma va da un'amica a farsi fare la carta astrale, perché la mamma vuole che questo Guido diventi un cantante, un attore, è fissata con questa cosa, un artista in generale, e quindi c'è questo dialogo fra le due amiche, appunto Siriana, che è l'aspirante astrologa, e Antonella, che è la mamma di Guido. Allora, mi hai detto che è nato alle 2 del pomeriggio, no? Siriana ogni volta che illustra la carta astrale a qualcuno indossa un foulard blu con le stelle dorate, come il cielo di carta lucida che fa da sfondo al presepe. Sul lato destro della faccia le scendono un paio di ciuffi ribelli sbiaditi che lei giura di schiarire con la camomilla e bagni di mare. Come sempre, in qualsiasi momento del giorno è truccata. Non che il trucco poi migliori di tanto la situazione di quella faccia stanca. La riga di matita che le contorna le labbra può poco poco per combattere la sottigliezza della bocca. Una sciabolata orizzontale. Sì, ho guardato l'orologio, erano le 2 esatte. Sei sicura che andasse bene? No, perché se andava 10 minuti avanti o indietro potrebbe cambiare tutto. No, sono sicura, sono sicura. Allora, cosa mi dici del mio ometto? Stavolta va meglio rispetto agli altri, no? Anche Mario e Nedo hanno una buona carta astrale, ma di sicuro non saranno artisti. Questo qui, invece, Siriana fa una pausa effetto e si accende una Muratti. Soffia il fumo verso l'alto per non dar fastidio al piccolo, che è sveglio e attento in braccio alla madre. È stata diversi giorni a preparare la carta astrale. Ora, con un'espressione di trionfo, stende i fogli scritti nella sua grafia minuscola davanti a Antonella. Essendo nato il 22 giugno, tuo figlio è Cancro, cuspide, gemelli. Questo già lo so, ed è una cosa buona o cattiva? Niente è cattivo nello zodiaco, ricordati. Voglio dire, il fatto che non sia del tutto Cancro, ma anche un po' gemelli, è una cosa positiva o no? Dipende. Non c'è una risposta univoca a questa domanda. Univoca? Ma come parli? Brava, eh? L'ho letto su Confidenze. Allora, il Cancro è un bel segno, permaloso, ma pieno di sensibilità e talento. Siriana spenge la sigaretta nel portagioie che sua cugina le ha portato da Lourdes e che lei ha sempre usato come posacenere. Le piace trovare un uso secondario alle cose inutili. Anche la Madonnina piena d'acqua benedetta, con la coroncina blu che si svita a mo' di tappo, Siriana la riempie di olio abbronzante e se la porta al mare. Certo, prosegue, ci sono tanti tipi di talento. Il Cancro è un segno d'acqua e l'acqua è presente in tutte le cose, il che è un bene. Ad esempio, si usa l'acqua per diluire i colori o per ammorbidire la creta, quindi questo è un buon punto di partenza per un pittore o per uno scultore. Mi sono informata, Modigliani era del Cancro. Io preferirei un cantante o un musicista, anche uno scrittore al limite. Leopardi era del Cancro e i fusti come immobile, ma mi sa che quello era Foscolo. Vabbè, fa lo stesso. Comunque, il punto di partenza è buono. Il problema è che Guidino non è un cancerino puro, ci sono di mezzo i gemelli. E porta male? No, male no, non esiste bene o male nello zodiaco, te l'ho già detto, anche se, si sa, i gemelli essendo 2 sono sempre doppi, non c'è mai da fidarsi, ma è proprio per la loro doppiezza che possono diventare ottimi attori, Alberto Sordi è un gemelli e anche Marilyn Monroe, e se per questo anche Judy Garland era dei gemelli, i gemelli sono un segno d'aria e così anche la Bilancia, che poi è l'ascendente di Guidino, e l'ascendente in Bilancia è un bene, no? I segni d'aria sono spontanei, ma tendono a essere dispersivi. È l'aria, no? Li rende fluttuanti. Spesso non riescono a concentrarsi su un obiettivo. Forse era meglio un segno di fuoco, che gli dava più determinazione, ma è sempre meglio la Bilancia della Vergine. Troppo precisi, troppo concreti, privi di immaginazione. Il peggior segno dello zodiaco, secondo me, quello stronzo di Massimo, è della Vergine. Va bene, questo non ci interessa, no? Visto che Giude è del Cancro, cuspide gemelli, ascendente Bilancia. No, infatti, si fa così per parlare. Comunque, non è vero che la Vergine non ci interessa. Guidino, infatti, ha la luna in Vergine. Ah, di sicuro porta male. No, non è detto. In questo caso, la luna in Vergine dà al segno una caratteristica di pragmatismo. Pragmatismo? Lo sai che mi devo raffinare se voglio leggere le stelle come una professionista, no? Se no rischio di passare tutta la vita in quella pasticceria di merda. Dicevo, la Vergine, col suo senso pratico, mitiga la sensibilità del cancro e la dispersione dei segni d'aria. Insomma, secondo me è un bene. Davvero? Sì, e c'è un'altra cosa che leggo nelle stelle. Mercurio è in Gemelli, il che significa che si trova nel proprio domicilio. Questo fa di Guidino una persona molto intelligente e estroversa, e di natura aperta. Insomma, stavolta, sì, mi sa che ci siamo. Se non è lui l'artista che cercavi... Antonella si alza dalla sedia e abbraccia Siriana. Grazie Siriana, grazie. Quanto ti devo? Ma com'è che tutte le volte mi vuoi pagare? Guarda che questi non sono i tarocchi, che se non paghi porta male. Le stelle sono superiori a tutto questo. Allora la solita stecca di Muratti. Se quando me la porti non sono in casa, lasciala sullo zerbino. E questo è Gli anni incerti, canzone di fine millennio di Emiliano Dominici. Se appunto poi qualcuno, i libri sono lì. Sì, c'è il banchetto di FQ che è l'editore, è lì, sì. E se volete scambiare poi due chiacchiere con Emiliano direttamente, o se avete delle domande qui, se no ci salutiamo e ci troviamo lì al banchino delle dediche. Certo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Qualche temerario? Va bene, grazie mille, grazie a tutti, dell'attenzione, buona serata. Grazie mille.